prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Nei primi anni Ottanta, mentre il regime argentino procedeva a far sparire centinaia di persone colpevoli di opporsi alla brutalità dei colonnelli, molti continuavano a vivere nella completa indifferenza. La canzone di Sosas dice proprio questo, chiede di non restare fermi, indifferenti contro le ingiustizie. Il regime argentino aveva una lista di persone bandite, tra loro c'erano anche artisti italiani che si erano spesi contro i colonnelli. In questa lista figura anche il nome di un ragazzo, un giovane cantautore salentino, Franco Simone. Allora Simone aveva un successo incredibile in Argentina, avrebbe potuto fregarsene, prendere i soldi della vendita dei dischi e dire ai posteriori che non ne sapeva molto di quanto stesse accadendo a livello politico nel paese. Invece Simone disse no ai colonnelli. Mi chiesero di asservirmi al sistema volendo usare l'immagine di noi personaggi pubblici per fare propaganda al regime. C'erano 5.000 militari che mi aspettavano. Volevano darmi un'onorificenza e utilizzarmi per i loro scopi, visto che ero ancora una volta primo nella classifica delle vendite e quindi popolarissimo. Televisioni e giornali mi aspettavano, ma io mi sono rifiutato e il regime ha proibito di mandare in onda tutto ciò che aveva a che fare con il sottoscritto. In quel momento il mio impresario mi prese per matto perché stavo rischiando ben altro che i possibili guadagni. Per questo mio rifiuto, secondo il mio impresario, mi sono giocato mezzo miliardo delle vecchie lire. Ma non ho avuto un attimo di esitazione perché mi sento un uomo del sud e per noi determinate cose come la libertà non hanno prezzo. La scelta di questo musicista fu una scelta di coraggio, perché Franco Simone si trovava a Buenos Aires quando disse no. Franco Simone è una persona di grande eleganza e non ostenta, ma da quella scelta molte cose in fondo cambiarono nella sua vita, che non era stata facile fino ad allora. Mi rendo conto molto spesso, quando incontro persone che non hanno conosciuto la povertà, che è come se avessero un handicap. Per cui io ho avuto questa grande fortuna, come ha detto Roberto Benigni quando ha dedicato l'Oscar per La vita è bella. Lui disse: ringrazio i miei genitori che mi hanno regalato la povertà, che può sembrare una frase fatta e retorica, invece ha una grande, racchiude una grande verità. Perché oggi mi trovo in una situazione, qualunque problema posso attraversare, ovviamente tutti abbiamo dei problemi, piccoli e grandi, spesso grandi, è il fatto di aver avuto un'infanzia non felice, è come se uno avesse fatto il vaccino, tutto sembra relativo in confronto. Per cui io sono davvero, ringrazio la provvidenza, ringrazio il caso, non so che cosa, che mi hanno fatto nascere in un profondo sud dove si respirava. Ti dico solo una cosa, io ero il primo della classe e non avevo i libri per studiare in alcuni anni, dovevo andare a fare la matematica in casa di un compagno, il francese in casa di un altro, non so, e per me la filosofia in casa di un altro ancora. E per me la felicità era poter avere i libri su cui studiare. Per me, bambino, ragazzo, dicevo: ma cosa può desiderare di più della vita? Uno che ha i libri in casa, che si sveglia la mattina, prende il libro e lo può sfogliare, lo può approfondire, ci può studiare. Per me questo è il concetto di felicità. Io frequento molto la lingua spagnola, i paesi, e loro dicono, mi piace molto questo verbo, entregarsi, offrirsi, perché anche lo spettacolo, anche la vita artistica, è fatta, cioè l'artista che si esibisce, l'altro che ascolta magari, però le sensazioni vanno e tornano. Se vanno solo a senso unico, ci sono di mezzo quegli artisti che mostrano i muscoli, quelli che dice senti che bella voce che ho, senti quanto sono intelligente, senti quanto sono bravo, ma non si mettono mai a livello. Come mi ha insegnato Patti Pravo, io ho chiesto a Patti Pravo, che è una donna, adesso vabbè, non è una ragazzina, però è una donna geniale, è una capacità di sintesi incredibile, la cito sempre infatti, quando parlo di arte in tutti i miei discorsi la cito. Una volta le ho chiesto dov'è la differenza tra gli artisti e quelli che no, e lei mi ha detto gli artisti veri si lasciano andare. Sembra una frase così banale, e invece lasciarsi andare vuol dire anche la mancanza di controllo di quel di quella maniera di cercare di accattivarsi il pubblico, di fare i furbi, insomma, no? Poi sempre di quello stiamo parlando. Sì. Gli artisti veri, tutti gli artisti veri sono capaci di lasciarsi andare. Ritorno a Luigi Tenco, nessuno più di lui si lasciava andare, fin troppo si lasciava andare. E quindi poi abbiamo... Insomma, faccio un lavoro, grazie a Dio, che mi piace sempre di più, perché oggi ne conosco tutte le sfumature. Per esempio, oggi faccio anche il produttore discografico. Una volta me l'avevano chiesto, ma non riuscivo a farlo, perché non avevo abbastanza conoscenza. Oggi è come se avessi una tavolozza di cui conosco tutte le capacità cromatiche, no? E quindi riesco a fare anche la realizzazione di questi due dischi che mi stanno tanto a cuore, e la mia ambizione è quella di mettere insieme, a proposito di questi due dischi, proprio questa unione quasi scandalosa può sembrare, di Stabat Mater, che parla della sofferenza di Cristo in croce, della madre che sta lì, della Madonna dinanzi a lui in croce, e di Luigi Tenco, che per me è una specie di santo pagano. Non a caso nel disco ho incluso anche quella meravigliosa canzone scritta da Fabrizio De André, che è un inno alla bontà d'animo, alla misericordia, questa parola bellissima a cui sta dando grande valore Papa Francesco. Uno come Fabrizio De André, che non è che poi fosse tanto religioso, credo che fosse ateo, no? Beh, lui però poi, anche se non religioso, secondo me è riuscito a raccontare la spiritualità. Appunto, molto meglio quello volevo esattamente dire, questo, che lui e nessuno più di lui ha raccontato la spiritualità, e parla della misericordia in questa canzone. Non so se tu la senti, o se comunque la conosci, sì. Preghiare in gennaio, che più che parlare al Padre Eterno sta parlando con i figli ben pensanti, con i opedi e quelli che giudicano così in maniera superficiale. Dice: tu lo sai bene, l'inferno esiste solo per chi ne ha paura. La sua pelle dovrà riconsegnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte, ai suicidi dirà, baciandoli alla fronte, venite in paradiso, là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Fate che giunga a voi, con le sue ossa stanche, seguito da migliaia. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Facce bianche, fate che a voi ritorni, fra i morti per oltraggio, che al cielo e dalla terra mostrarono il coraggio. La prima volta. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. La prima volta. Stabat Mater dolorosa, più sta crucem lacrimosa, dum pendebat, dum pendebat finius. Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Una canzone dedicata a Tenco e uno Stabat Mater erano questi i due più grandi sogni artistici di Franco Simone, una carriera lunghissima fatta di tanti successi e alcune difficoltà. Io avevo un vecchio sogno, intanto io ascolto moltissimo musica classica accanto alla pop, voglio dire, sono un onnivoro, ecco, ascolto un po' di tutto. E per quanto riguarda la musica classica, ho sempre amato moltissimo i vari Stabat Mater, quindi quello di Rossini, quello di Pergolesi soprattutto, poi c'è Vivaldi, Haydn, eccetera. E mi ha sempre affascinato questa preghiera del secolo XIII di Jacopo Negatori. E ho detto, il mio sogno, mi sono sempre detto, sarebbe quello di avere un giorno un mio Stabat Mater. Adesso ce l'ho, grazie al cielo. E davvero, per quanto abbia fatto tanti dischi, insomma, ho avuto tempo di fare tante cose in tutti questi anni, davvero ho coronato un sogno. Mi sveglio al mattino e dico, no, non è possibile. Con l'età si affettano di più. E quanto ci hai lavorato a questo progetto? Ma guarda, l'idea risale a più di 30 anni. Più di 30 anni fa ho cominciato a pensare a questa cosa. Però quando poi mi sono messo a lavorare, è venuto fuori abbastanza facilmente. Sono stato anche stimolato dagli incontri, perché ovviamente non avrei fatto un'opera così e poi cantarmela da solo, non sarebbe stata una bella idea. Invece ho trovato un arrangiatore straordinario, Alex Zuccaro. Secondo me è un po' l'istrumentista, non vorrei sembrare blasfemo, ma insomma mi ricorda la maniera di fare di Stevie Wonder, che condisce un po' tutto quanto di suoni in maniera abbastanza autonoma. E poi ha delle spruzzatine alla Morricone, perché poi è nostro, è salentino come me per giunta. Quindi questo incontro è stato fondamentale. Poi i colleghi, perché ho avuto un incontro felicissimo con Michele Cortese, che è uno degli Aram Quartet. L'unica volta, quando loro erano in gara X Factor, che mi sono messo al telefono per votarli, e sono rimasto affascinato dalla vocalità di questi ragazzi, in particolare proprio di Michele Cortese, che io dico sempre, lo ripeto convinto, è il più bravo tra i giovani colleghi. Ha una vocalità pazzesca, una preparazione, oltre a delle doti umane che ti consentono di lavorare insieme. Poi c'è un cantante lirico, nel disco ce ne sono due veramente, c'è Gianluca Paganelli, voce splendida che ricorda in qualche modo Luciano Pavarotti, e Rita Cammarano, che viene definita il soprano degli Oscar, perché ha già lavorato con Woody Allen e con Nicola Piovani. Quindi arrivo a questo Stabat Mater, e beh, insomma, ne sono assolutamente entusiasta, fuori un lavoro che neanche io avrei immaginato di poter portare a termine così. L'altro progetto, che più o meno risale come sogno, come progetto a moltissimi anni fa, anche questo, fare un album interamente dedicato a Luigi Tenco. Mi sembrava un appuntamento obbligato per me, è stato un ritornare sempre, è stato un maestro indubbiamente di espressione, di essenzialità, un maestro, oserei dire anche un maestro da un punto di vista morale, perché credo che sia stato il più inflessibile, il più preciso, il più rigoroso proprio tra i colleghi. Non ha mai fatto una sbavatura, e non mi piace parlare della fine di Tenco, sì. Lo trovo morboso e di cattivo gusto ancora continuare a farlo. Io ritengo che se non fosse andato a Sanremo sarebbe ancora qui. Io non ho tendenze suicide, ma sono andato due volte a Sanremo, se avessi dovuto farlo finire l'avrei fatto anch'io lì. Ma perché Sanremo, dici? Anche quest'ultima edizione, secondo me, che è stata osannata da praticamente da tutti, non è stato colto lo squallore artistico, perché fare un festival dove c'è, è vero che c'è l'audience, ci sono grandi numeri, ma poi in definitiva non è rimasta una canzone memorabile. E credo, dico questo che potrebbe sembrare una polemica sterile, se non fosse che se ci fosse stato un Tenco della situazione, anche quest'anno sarebbe finito magari male, perché uno che ha coscienza di quello che è e si trova circondato da squallore, senza non è una questione di ambizione, l'artista ha bisogno dell'applauso, ha bisogno dell'abbraccio del pubblico, perché non basta a se stesso, credo che la prima definizione che si possa dare all'artista è di una persona che non basta a se stessa. E più uno è artista, meno è autosufficiente. Quindi per Stenco, secondo me, era fondamentale. Torno a parlare della vita, ha fatto, non aveva neppure 29 anni, ha fatto capolavori che lo hanno proprio consacrato tra i grandi dei del nostro cantautorato. Il mio primo produttore, persona che ho amato moltissimo, è stato il maestro Ezio Leoni, grandissimo. Ha prodotto Adriano Celentano, Gabriella Ferri, Luigi Tencro. Era veramente una persona, a me ha dato tanto, mi ha davvero insegnato tanto. Anzi, spesso mi ricordo di alcuni consigli che non ho seguito, altri. Se li avessi seguiti tutti mi sarebbe andata ancora meglio, perché era una persona meravigliosa. E al nostro primo incontro mi disse: Franco, ricorda che un vero artista è una persona che si esprime così. E mi mise sul piatto e giradischi, ho capito che ti amo, che io già conoscevo ed amavo, però mi piacque questa coincidenza. Ho capito che ti amo. La prima volta termina qua. Vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo che ci trovate su Facebook alla pagina Radio 24 _ La prima volta. Buona serata a tutti da Cristina Carpinelli. Indifferenza per temere che tu non venissi più.